try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason. You know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. Segreti mischiati come colori scuri su una tela dove mi possa perdere, luce che oltre le tenebre ha un brivido e un'espressione. Ma vorresti chiedermi dove si sia nascosto quel bianco che poi ti illumi mentre rimani lucida, e come fare a rispettare i confini e le regole, ed è come fare stop sulle nuvole. L'Inter intervista di questa settimana è dedicata a un genere musicale che noi normalmente non trattiamo più di tanto, e infatti io mi farò spiegare molto di questo genere e anche dell'album appunto di cui parleremo oggi dal cantante. Ciao Christian, benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, ciao. Come stai? Io sto bene, voi ragazzi come state? Stiamo bene, dai, poi adesso ricominciamo a parlare di musica anche dal vivo, quindi questa è una cosa che assolutamente fa stare un po' tutti meglio. Bene, allora noi facciamo questa chiacchierata perché il 19 aprile, cioè pochissimo tempo fa, è uscito il primo EP del vostro progetto. Per prima cosa io ti chiederei come si pronuncia il nome della band. Allora, noi siamo i 43.9, 43 in numero e 9 in lettere. Ma come mai questo nome? Perché è un po' particolare. Perché, cioè... non possiamo dirlo, diciamo che io e lì ci teniamo, che è l'altro ragazzo di 43.9, ci teniamo un po' a tenere questo mistero sul nome, è un po' un divertimento, dai. Va bene, allora noi immagineremo, possiamo solo immaginare, insomma, diciamo qual è. È un luogo, è un posto dove si può, diciamo solo quello. Va bene, allora il nome non ci dirai cosa significa, ma ci racconti un po' la vostra storia, allora. Assolutamente. Io e Eli, appunto, siamo... I 43.9 sono nati pochissimo tempo fa, ovvero esattamente il 5 maggio, il giorno dopo la riapertura del lockdown dell'anno scorso. E, però in realtà io e lui ci conosciamo da tanti anni, sono ormai 6 anni insieme che suoniamo. Prima erano solo cover in inglese, e invece abbiamo... provato a scrivere anche i nostri pezzi in inglese un po' di anni fa, poi lì è partito a Londra 2 anni, ci siamo un po' distaccati, siamo anche un po' evoluti a livello musicale, tutti e due indipendenti l'uno dall'altro, per poi ritrovarci e partire con il progetto 43.9 in italiano, ovviamente, e niente, ci stiamo provando, stiamo dando tutto in questo anno, abbiamo dato il 100% e è stato bellissimo. Capita alle volte di tornare su vecchi pensieri con il pizzichio delle corde dell'anima. Mi domando se l'impatto sarà forte abbastanza. Seguo i binari della fantasia, cercando casa, spinta dal vento e dall'oscurità, come una nave lei dondola, mentre nell'aria senti odore di libertà, e lei balla sulla cresta dell'onda. Dell'onda, e lei balla sulla cresta dell'onda, dell'onda. Preso male come un figlio di puttana, quindi alzo quella radio che non voglio più sentire niente. La pioggia sta cadendo ma non fa rumore, e io sono da solo con le sigarette. Ho un amico che dice sei felice solamente 4 volte nella vita. Non credo sia vero, ma non so che fare con questa mia malinconia. Andiamo a prendere qualcosa da bere, dico la verità quando non la dovrei dire. Toccami le mani, guardami negli occhi, ci sono molte cose oltre la superficie. Fammi fare un giro dentro la tua testa, io voglio sapere cosa stai pensando. Ora che ho finito pure le parole, sotto questo cielo bianco. Spinta dal vento e dall'oscurità, come una nave lei dondola, mentre nell'aria sente odore di libertà. Balla sulla cresta dell'onda, dell'onda, e lei balla sulla cresta dell'onda, dell'onda. E lei balla sulla cresta dell'onda, dell'onda, dell'onda. E lei balla sulla cresta dell'onda, dell'onda. Voi dove avete registrato? Qual è stato il vostro modo di creare questo primo EP? Il primo EP abbiamo avuto la fortuna, dopo l'estate scorsa, dopo l'ultimo concerto, di conoscere Walter Bonnot, il grandissimo, e abbiamo avuto la fortuna che lui, nonostante sia di Bergamo, poi qualche anno fa si è trasferito nel luogo dove siamo noi, ovvero a Viareggio, in Toscana. E l'abbiamo conosciuto quest'estate e abbiamo avuto la possibilità di iniziare a lavorare con lui e di registrare appunto anche l'EP da lui. È stato fortissimo e è stato un super onore. Ora continuiamo a lavorare con lui, siamo sotto la sua etichetta e che bomba, no? Beh, anche perché ha lavorato con dei grandissimi nomi, insomma Caparezza per esempio qua in Italia, quindi insomma tanti tanti nomi importanti. Riguardo anche appunto a questa collaborazione, io mi ricollegherei un po' al vostro genere musicale, perché è un po' difficile da etichettare o da definire. Come lo potremmo chiamare, se vi va di farlo? Allora, noi in realtà, io e Eli, non ci siamo mai permessi di farlo con la musica, anche con la nostra, solo che non... però ci stanno un po' dicendo che siamo un po' in indie, cosa che forse non è troppo vera, ti dico, un po' pop, urban, questi generi qua, e Walter però invece ci tiene a, quando parla della musica nostra, dice che siamo cantautori e cantautori, quindi non lo so sinceramente, non lo so. Beh, forse non è neanche... Ok, allora lo diremo noi alla fine dell'intervista magari, o i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Parliamo però un po' di musica a questo punto, perché il vostro album, il vostro EP, anzi di esordio, ricordiamo, è uscito il 19 aprile e però è stato anticipato da un singolo che si chiama Immagini, se non sbaglio. Ti chiederei un po' di raccontarci la storia di questo brano e poi magari l'ascoltiamo assieme. Ok. Quel brano lì è stato uno degli ultimi brani che abbiamo scritto, perché quei brani che sono all'interno dell'EP sono stati scritti più o meno tutto il periodo tra maggio dell'anno scorso e settembre, e anzi ottobre, perché Intro è stato scritto a ottobre, e quel pezzo lì è nato bellissimo, perché la storia è bellissima anche per noi, perché eravamo stanchissimi dopo una settimana piena di live che avevamo fatto qua sul litorale toscano, e ci siamo presi un po' di giorni, io, Eli e i ragazzi della band, per un po' di riposo nelle colline qua davanti, in una casa di un nostro amico, e appena arrivato abbiamo scaricato subito la roba, abbiamo iniziato subito a suonare e dopo mezz'ora è uscita Immagini. Così, nonostante la stanchezza, nonostante fosse riposo, fosse una festicciola tra di noi, è partito il pezzo, infatti si sente che rispecchia molto anche il mood di quel periodo lì, perché è il pezzo con più groove all'interno dell'EP, e infatti è quel simbolo dell'estate scorsa, è il simbolo comunque di 43.9, penso, quindi è quel pezzo lì, quindi è stato giusto anche farlo uscire prima, dargli più spazio, dargli le prime. Perfetto, allora ce lo ascoltiamo assieme e poi continuiamo a parlare invece del vostro EP. Cercavo immagini nascoste tra le mura di casa, se parlano di te, e mi immergo in una brutta giornata. E cercavo immagini nascoste tra le mura di casa, mi parlano di te, immersa in una brutta giornata. Ti ho lasciato la penna, tu servirà. La mia luce nel buio ti servirà. Tu mi dici no, non c'è regola. Se c'è Dio, si è concesso una penica. E vorrei fare come te, come voi, come vuoi, come chi, cosa fai, come stai, come noi. 10 agosto, Dio, lavoro di domenica. Le mie soli sono cadute sulla metrica. E tutta questa gente che mi parla di gente, la gente della testa di chi praticamente. Sono buono a fare schifo solo praticamente. Esco fuori a fare un giro, faccio praticamente. Stare male va bene, fa bene. Ma coi soldi di il culo a sedere. Se mi cerchi non trovi la quiete. Non c'è pace che non puoi tenere. Cercavo immagini nascoste tra le mura di casa. Mi parlano di te, immersa in una brutta giornata. E voglio andare via, dimenticare tutto questo. E voglio andare via, dimenticare tutto il resto. Il ruolo del tempo ci farà dimenticare. Lungo il suo solco ci farà del male. Essere un pendolo della battaglia duale. Sul corpo le pene diventano piaghe. Le colpe nel marmo non sono scolpite. Parole fittizie, sì, sì, parole fittizie. Tanto tornerò a prenderti, giuro tornerò a prendere. A belle promesse non devo più credere. E sai che tornerò a prenderti, giuro tornerò a prendere. Cercavo immagini nascoste tra le mura di casa. Mi parlano di te, immersa in una brutta giornata. Cercavo immagini mi parlano di te, immersa in una brutta giornata. Abbiamo ancora detto il nome del vostro EP. Ti chiederei se ti va di presentarlo e di raccontarci un pochino la storia che è contenuta in queste quattro tracce. Allora, l'EP si chiama Storia di nome, perché appunto dopo aver scritto i pezzi, in realtà ci siamo stati molto a pensarci, molto anche ad analizzare i testi che avevamo scritto, e magari anche alcuni testi che avevamo scritto di getto proprio, no? In maniera un po' a flusso di coscienza, per dirne una. E niente, appunto adesso si crea una sorta di climax che non è in ordine appunto cronologico all'interno dell'EP, perché Storia di un uomo abbiamo trovato la storia, la vera storia di questo proprio uomo che, no, che parte dall'infanzia fino alla vecchiaia. Immagini, che è stato il singolo di uscita, era l'infanzia, per poi passare invece alla prima canzone all'interno della traccia, che è l'adolescenza, e arrivare alla seconda traccia, che è la mezza età, che si chiama il pezzo Capita alle volte, e in fondo l'ultimo brano, che dà appunto anche il nome a Storia di nome all'EP, è la vecchiaia. E infatti quel pezzo lì racchiude tutte le sensazioni che poi anche all'interno degli altri brani si cerca di aver trasmesso, sia con la musica ma sia anche con, soprattutto con il testo, con le sensazioni e con le immagini che volevamo trasmettere. E questo uomo ne ha vissute tante, però all'inizio è stato partito, abbiamo partito scrivendo di questo uomo che era uno scrittore, che io che Eli eravamo innamoratissimi di lui, e poi in realtà lo abbiamo riempito di nostre esperienze e di nostre concezioni, un po' di nostri pensieri sul mondo e su una persona come lo potrebbe vivere. E quindi è proprio trasuda una storia, penso, queste EP, anche se non posso dirlo perché sono di parte, però penso che si capisca bene. Ma è già stato presentato questo disco? Insomma, ha già fatto questo uomo, ha già conosciuto un po' di pubblico o i live sono ancora in attesa di essere programmati? Allora, il pubblico, alcune persone in live hanno sentito questo pezzo, un pezzo dell'EP, ed si è fatto sentire in anteprima a settembre dell'estate scorsa, perché era stato scritto proprio quella la settimana prima, quindi abbiamo detto testiamolo e abbiamo fatto rimanere lì. Ancora no, dell'EP nel progetto nuovo così, no, ancora non è stato sentito niente, ancora i live bisogna programmarli. Ok, ma per una band che è nata poi durante quest'anno, insomma, è stato un po' particolare, immagino, poi nascere, creare il proprio disco e adesso trovarsi dopo un anno poi a raccontarlo in un qualche modo. E per quest'estate avete già pensato a cosa fare? Nel senso, i live sono ancora da programmare, ma avete in mente un tour o avete in mente di tornare in studio a registrare? Un po' tutte e due, perché non ci vogliamo fermare in nessuno dei due fronti, anche se comunque l'estate, soprattutto da noi, è vero che ora ancora non è programmato niente, però le serate ci sono, perché alla fine noi siamo sul litorale toscano e in Versilia, quindi l'estate si popola di persone, si popola di locali dove la musica serve, e quindi sicuramente punteremo tantissimo anche qua nel suonare il più possibile, ma anche di andare fuori, perché adesso bisogna cominciare a pensare anche in quei termini lì. L'estate scorsa abbiamo fatto solo qua, adesso bisogna pensare a spostarci e a far sentire le nostre canzoni un po' in tutta Italia, si spera. Perfetto. Però anche in studio bisogna continuare, continuare, perché anche perché non ci fermiamo mai nello scrivere, cioè è proprio quello anche l'essenza, penso. Perfetto. Allora io ti chiederei di scegliere una traccia dell'EP per salutare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori e se hai un messaggio da mandare, insomma, siamo a orecchie aperte. Allora, io consiglio di ascoltare Storia di un uomo, che è l'ultimo pezzo del nostro EP, appunto Storia di un uomo, che è uscito il 19 aprile. Noi siamo ai 43.9 e ci sentiamo tutti molto presto, allora. Grazie. Vi faremo sentire qualcosa. Grazie mille, allora Grazie mille Christian. a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao. Questa è la storia di un uomo che è andato a fondo, vive la vita di un altro, plasma il suo mondo, architetto dell'inganno e della sua stessa paura. Una finestra nella collina per uno squarcio di mare, adesso non vale tirarsi indietro. Oh, yeah. Pagine bianche, c'è odore di vino nell'aria, vestiti bene stasera, se puoi. E senza sane risposte rincorre nell'alba la sua vera natura. E guardo il cielo stasera, la vera signora sei tu. E la tua vena sincera riflette stasera il mio blu. E vorrei vivere negli 80 il profumo della tua giacca. E rinchiusa nella mia stanza, lei, illumina di lana distratta, mentre nasconde la sua faccia, insieme a Mick nei suoi 70, pagine bianche, c'è odore di vino nell'aria, vestiti bene stasera, se puoi. E senza sane risposte rincorre nell'alba la sua vera natura. Pagine bianche, c'è odore di vino nell'aria.